È stato Mattarella a dirci che noi possiamo venire in Italia, quindi noi vogliamo wifi, wifi, anche stipendio. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. A proposito, io avevo fatto quella discussione con Paco. Paco, che fine ha fatto? Ha detto che andava via dall'Italia. Io spero che sia già preparate le valigie. Già. Tu sei una pezza di merda, sei. Sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua. Allora, Crusani, ho sentito l'altro giorno il tuo compagno di partito, il PDRB, il partito dei razzisti bastardi. Già. Chiedere che si sono ancora qua. Già. Sono ancora qua. Ma sono ancora qua. Ma il tuo compagno di partito col Silvano a Bergamo, col cretino là, deve sapere una cosa. Io la casa l'ho comprato in Italia. Se mi vuole vedere andare via dall'Italia, mi deve ricomprare la casa. Io sono disposto. Sono disposto a rivendere la casa, andarmene fuori coglioni e regalarli. Io ho cominciato a lavorare in Italia il 27 febbraio del 1995, ok? Sono 22 anni passa. Se lui, io gli regalo tutti quei anni, i contributi che ho pagato, lo posso lasciare qua, come che hanno fatto tanti immigrati, hanno lasciato qua i contributi, sono andati via. Io glielo posso lasciare, però la casa no, cazzo. La casa no, la casa no, la casa no. Se vuole ricomprare la casa mia, mi può anche accompagnare all'aeroporto. Siamo in quattro. Io, mia moglie e due figli. Andiamo via subito se mi ricompra la casa. Però deve venire a ricomprarmi la casa, me ne vado e gli regalo. 22 anni di contributi versati. Cazzo. E io sono ancora qua. Già. Già. Già. Io sono ancora qua. Già. Bastardo che siete. Bastardo che siete. Vai, vai, vai, vai. Spada di fuoco. I wanna now, I wanna know. I got to rock, I need to roll. If you can't hang with the speed I go, I'm gonna roll tonight. I wanna now, I wanna know. I got to rock, I need to roll. If you can't hang with the speed il I go. Il signor Paco Spada di Fuoco, uomo combattente che viene dal Senegal e mi considera. E mi considera uno sporco razzista. Ovviamente sì, signor Paco è molto parenziano, a parte la parte sessuale, no? Cioè, lasciamo perdere la parte sessuale. Sì, sì, ma non ha detto delle cose fuori luogo. Ha detto delle cose molto, molto ragionevoli, mi pare. Ragazzi, iniziamo subito. Risentiamo la seconda parte del signor Paco, però, Non era tutto, non era tutto. No, signor Paco, Paco da Belluno, l'emblema dell'immigrazione integrata, senti. Ecco, esatto. Allora, potete fare la colletta. Voi razzisti leghisti là. Mi bastano 200.000 euro per andarmene via dall'Italia. 200.000 euro, Cruciani. Tu che sei un milionario. Sei pieno di soldi. Anche col terzo del cazzo di Salvini che è pieno di soldi. Ma datemi 200.000 euro, me ne vado via. Silvano, dove sei in semini buzzuro? Dove sei? 200.000 euro in basso, Silvano, per piacere, Silvano, te chiedo per piacere, con 200.000 euro me ne vado fuori coglione dell'Italia, torno a casa mia con 200.000 euro e te lascio una casa e 22 anni di contributi versati. Silvano, fammi piacere Silvano, testa di cazzo che sei altro, fammi piacere, se hai coglioni, tirale fuori quei coglioni là che hai e datemi quei soldi là e io me ne vado e tutti contenti, basta. io non ho capito, alla fine questo vuole i sordi, cioè alla fine questo vuole i quattrini, ma che vuoi, ma detto, volete che me ne vada, ma datemi i soldi e me ne vado. Ma 200.000 euro, poi dice a me milionario, ma quale milionario, la ma che milionario, tu sei milionario, ma non dagli, è vero, ma che milionario, tutti, è un'ottima idea, capito, questo stai diffondendo, stai, ah, un'ottima idea, dici, se mi volete che ce ne andiamo, sì, datemi i quattrini, no, è un'ottima idea questa di migranti che poi sono cittadini italiani, volete che se ne vadano fuori dai coglioni, benissimo, pagateli sul conto in banca e se ne vanno. No, ragazzi, ma questo è fuori di testa, Paco, ma chi te li dà 200.000 euro tu, per cosa? Tu peraltro che sei un milionario, ma non è vero, vero ma è una falsità assoluta, ma non è vero, assolutamente, pazzesco hai in Piazza di Spagna, che dove c'è ora la residenza dell'ambasciatore spagnolo, ma è totalmente falso, è tuo quel palazzo lì, ma che tu affitti, sei talmente ricco che affitti ai sovrani Spagna, cioè affitti a uno stato, la gente normale, la gente normale affitta a un privato, tu affitti allo stato spagnolo, capito? Quindi è talmente vero, ricco, è falso, hai, puoi permettergli di dire tutte queste stronzate e di essere razzista perché tu incassi dalla Spagna. Infatti, cari ascoltatori, fateci caso, Cruciani non ha mai attaccato il governo spagnolo, mai, anche quando il governo spagnolo apre le frontiere, fateci caso, Cruciani non l'ha mai attaccato. Perché? Perché il governo spagnolo finanzia la famiglia Cruciani, finanzia la famiglia Cruciani. Roba incredibile, guarda, la falsità colossale. Abbiamo detto, cioè, ho capito, ma dici delle falsità colossali, è tutto falso. Vabbè, avrai tempo per smentire. Ma no, ma che tempo per smentire? Intanto ti vengono a cercare. A proposito di soldi, a proposito di soldi, no, ma c'ha tutto mia madre, quello che è molto meno di quello che dici tu. Ah, allora è vero. Ma no, ma allora è vero. Ma è molto molto meno di quello che dici tu. Affittate al governo. Ma no, ma falso, questo è falso totalmente. Mi scrivono e mi chiedono: "Ma da dove fai la radio? Da dove lo faccio?" Dalla 7, dalla 7. Che la 7 mi ha messo a disposizione, dove c'è un apparecchio che dove si sente benissimo, non ci rompete i coglioni. Allora, è un apparecchio che Radio 24 ha costruito in collaborazione con la 7, quindi cogliamo questa occasione per rispondere a questa ascoltatrice che chiede da dove fai la radio. Va bene, allora ragazzi, ecco, a proposito cara, di quattrini, abbiamo già detto ieri, ma lo ripetiamo, Salvini adesso, Paco invocava dei soldi addirittura da Salvini, ha 8.000 euro in più, gliel'ha dati i toscani per questa frase pronunciata alla Zanzara. Cazzo, ha letto come un pirla, ma neanche come una prostituta di provincia, una pompinara di queste qua da due soldi. Ma ragazzi, Salvini fa i pompini, non so, va benissimo per quello. Ma come fai i pompini? A chi li fai i pompini? Non so, io fa anche rima. Ho capito, ma fa pompini, Salvini fa i pompini ai cretini. Se io votassi per la Lega, vedo il mio leader così, gli dico, vai a cagare, ho capito che ho sbagliato tutto. Questo era il commento delle foto uscite su un settimanale di Salvini a petto nudo, non so se ti ricordi, no Parenzo? Foto che hanno fatto in parte anche la storia, piccola storia della politica italiana, se vogliamo, la no? La storia della politica italiana. No, la piccola storia della politica italiana. Mi sembra tutto un po' eccessivo questo tuo. Allora, a proposito di immigrazione, c'è da registrare il professor Becchi. Il professor Becchi, già nell'entourage di Grillo, diciamo, oggi passato tra i cosiddetti sovranisti, giusto? Correggimi se sbaglio, eh. No, è perfetto. Tra i cosiddetti sovranisti, non è né leghista né della Meloni né di Berlusconi, che non è sovranista. Vabbè, ma non mi risulta niente di strano, cioè, no, dire, ma senti queste cose, che cosa dice? Ci vuole ma non una... me ne frega niente, ma di no, ascoltare ma come non te ne frega, ma posso dirti, perché ogni tanto non fai sentire il professor Claudio Magris, ad esempio? No, ma bravissimo. Non dice un cazzo Magris, non dice parla nulla, parla un po' lentamente, sì, no, non dice dire nulla di interessante. Sai che viene imitato molto bene dal signor Mercù, signor Magris. Sì, lo so, Andro Mercù. Allora Becchi dice: ci vuole un'azione militare, assoldiamo dei mercenari. Cioè lui dice che siccome vogliono approvare lo Ius Soli, vogliono approvare lo Ius Soli in fretta e furia la settimana prossima o comunque prima dell'estate, allora a questo punto ci vuole un'azione militare. È in corso un colpo di Stato, scrive, dunque ci vuole un'azione militare in Italia. Un colpo di Stato in Italia. Ma dov'è il colpo di Stato? Ma questo insegna all'università pure. I flussi migratori non si bloccano semplicemente così. Nell'immediato è una situazione di emergenza, si agisce con l'emergenza, cioè con un'azione militare. Militare, c'è poco da fare. Se vai lì in acque libiche e gli affondi i barconi, stai facendo un'azione militare. Non abbiamo la marina sufficiente, benissimo, chiamiamo, non lo so, i marinas americani, prendiamo dei mercenari. Signor Becchi, non ha tutti i torti però, devo dire la verità. Cioè, per bloccare i flussi migratori alla fine ci vuole un'azione militare, ma non è così strano. Uno, se no, alla fine i militari, ma per quale cazzo di motivo ce l'ha a fare? Cioè, uno, abbiamo, manteniamo ancora le navi militari pagando un sacco di quattrini con tanto di aereo, eccetera. Abbiamo un'emergenza come quella degli immigrati. Quale usiamo i militari. Beh, c'è un'emergenza. Ma te l'ha spiegato anche il dottor Bartolo, che voglio dire, a Lampedusa. Dottor Bartolo ogni ha detto un giorno... sacco. Non mi fare ricordare quello sì, che ha detto il signor Bartolo. Ogni giorno si non confronta mi fare con quel dramma lì. Non c'è nessuna invasione. Non c'è nessun non mi fare colpo ricordare, di Stato. Non mi fa ricordare quel nome su. Di quelle delle cose che ha detto l'altro giorno. Un grandissimo l'olocausto, non mi fare ricordare che ho già dato l'olocausto in mare. Ho già dato, è una tragedia, vergogna. Che c'è in mare. Siamo tu in guerra, bisogna affondare i barconi. Senti Becchi. Ma in guerra, ma in guerra dove? Oh, ma in questo guerra? Lo dice Becchi. Ma Becchi è Becco, figurati. L'unica cosa che noi possiamo fare in questo momento per difendere l'identità del nostro paese, per difendere lo Stato italiano, e siamo in guerra, si va lì e si spara si affondano i barconi. Io devo dire la verità, il vecchio Becchi ha colpito ancora. Ma il vecchio Becchi ha colpito ancora. Perché ha detto una avanti sciocchezza. Becchi, avanti tutta. Ma avanti cosa? Hai come il film appoggio. Di Nino Banfi. Vieni hai, avanti cretino. Hai il mio appoggio, professore. Ma poco, avanti figurati. Tutta, io non l'avevo ancora il ascoltato. Il bacio della morte. Avanti il bacio della morte. Cioè, bacio della morte chi? Scusa, è mio. Il che tuo, sei da, hai il mio appoggio. Senti, tu, il bacio su questa della morte. Storia dei migranti. Il bacio della morte. Persino il tuo amico chiaro. Vengono tutti a noi alla fine. Alla ma fine, tu sai, a proposito, vengono tutti sai, a noi. Volevo dirti una cosa, oggi è la giornata mondiale del bacio. Sì, ma chi se ne frega? No? No, io me ne fotto di queste cose qua. Le giornate mondiali sono da abolire. Sono solo una cosa pubblicitaria no, che andrebbero cosa, abolite. Ma andrebbero a te il bacio abolite. Di per sé piace o no? Moltissimo. Io mi eccito da morire, mi arrapo a dei livelli pazzeschi, pazzeschi. Ah, cioè, ti piace solo il bacio? Ah, meno male. No, perché io ti no, pensavo già matto. Più mi, no. Mi avevano raccontato mi piace, che sei mi piace il bacio selvaggio, mi piace il bacio sì, selvatico. Siamo tutti d'accordo, cioè ma il bacio mi avevano... quello all'improvviso selvatico, quello con la lingua sì, che si, bravo, che bravo. Si contorce su, dentro. Su questo siamo d'accordo. Slinguate perché, cose però, pazzesche. Aspetta, vabbè, fermo, però mi avevano detto che tu sì. Sei invece un amante anche dell'utilizzo dei dildi di farti legare, mi avevano detto, no, però. Ma quello che c'entra, scusa. Farti legare anche no, no, farmi legare no. Ma hanno detto così adesso insisti. Dopo questa cosa che ho rivelato di Napoli, devi raccontare cazzate a partire dalla questione della Spagna, dei soldi, chiamate numerose ragazze, chiamate numerose e raccontate anche in diretta quello che fate con Cruciani quando vi quando lo legate. Il problema vero è che siccome l'ho colto in un punto dolente con questa storia dell'amante a Napoli, adesso si vuole vendicare dicendo cazzate. Ma questa è la realtà. Giuro adesso voglio allora, dire, dopo il traffico, sentiremo Daverio, sentiremo il professor Daverio, il quale certamente non è un leghista, anzi, tutt'altro. No, senti che cosa dice sull'immigrazione, perché alla fine vengono tutti a me. Vabbè, sulle mie posizioni, viva la Marina Militare, interventi militari fortissimi ci vuole, viva Becchi! Più Natania, meno Parenzo. Più Natania, meno Parenzo! La Zanzara. Fate schifo. Cosa sta dicendo quel mostro? Zanzarosi, contattateci all'800 24 0024 o via WhatsApp al 393 71 71 701. Allora, Daverio, senti cosa dice, in Senegal non si sta poi così male. E devo dire la verità, io conosco il Senegal, non è che ci si stia proprio da cane in Senegal. Allora, la domanda che gli pongo è qual è il vettore psicologico che sta oggi muovendo una quantità infinita di esseri umani? Io non sono in grado di dare la risposta. Una ipotesi è che ci sia una gran carogna da qualche parte che abbia inventato il tutto per tirarci una pedata nelle ginocchia. Il grande complotto contro l'Italia per mandarci gli immigrati. Vai Daverio. Parenzo, no, io questo non lo condivido. Sono colpito però da un messaggio che mi scrive uno dei leader di Casa Pound dicendo: ricorda a Cruciani che l'intervento militare noi di Casa Pound lo chiediamo da un anno. Chi se ne frega, però. Dobbiamo occupare le coste libiche se vogliamo fermarli. Ti manderanno una tessera di Casa Pound. Ma adesso. No, ma io perché posso... ti hanno arruolato ma tra le file di scusa, Casa ma Pound. Ma qual è il problema? Io non sono arruolato. Loro dicono: noi da un anno dicono rivendichiamo. Io abborro, ovviamente. Va bene, ma qual è il problema? Io posso essere d'accordo una volta con Casa Pound, una volta volta col PD, una volta col comunista. Adesso ti mandano la testa, chi sono stato di Casa Pound. Lo sai con chi vai sono vai con Casa Pound. Lo sai, non ti fai le ronde, fai radio Casa Pound. Ma perché devi sempre arruolare le persone? E questa è la tua malattia. Ma non mi interessa, ma io posso concordare su alcune cose. Militare, senti, quelli di Casa Pound. Ma va bene, lo va bene, in questo caso hanno ragione. In questo caso tu sei come Casa Pound, se non peggio. In questo caso sì, allora qual è il problema? Cioè vuoi fare la guerra militare alla Libia? Fare la guerra alla Libia. Ma perché occupare le coste libiche? Anche se è necessario, sei un neocolonialista. Fosse necessario, sì, fosse necessario per bloccare. Ma dichiari guerra alla Libia. Ma dai, meraviglioso. Una cosa incredibile. Comunque, in ogni caso, ti dico, l'altro giorno, per dirti quanto posso essere poliedrico, in realtà quanto posso essere trasversale, è più appropriato come termine, sono stato a pranzo, non ti dirò mai con chi, con un ex, c'era un portaborsa, no, portaborsa è riduttivo, un deputato molto, che era uno dei pochi di Democrazia Proletaria ai tempi del mitico Capanna. Ti giuro, un personaggio no, intanto hai sbagliato, hai detto sei stato a pranzo, che volgare, pranzo. Sei stato a colazione, non rompere i coglioni. Sgarbi contro le banche e il sorteggio delle casette post terremoto all'Aquila, spettacolare, sentite. È una cosa scandalosa che nessun governo abbia fatto rinascere l'Aquila e che ancora adesso abbiamo i terremotati che stanno lì, che aspettano che gli arrivi una casetta per caso, per sorteggio. Ma che cazzo di cioè, come può essere l'Italia così infetta da buttare i soldi per le banche di merda, per i Monti dei Paschi e il buco del culo delle banche e non dare le case a quelle che non ce l'hanno? Ma dico, chiaro che uno si incazza. Beh, amico mio, però devo dire la verità, sarà un po' populista come cosa, però non ha tutti i torti. Ha detto una quantità di parolacce in 30 secondi, sì. Monte Paschi, banche di merda del buco del culo e Monte di Paschi e delle altre. Effettivamente, se tu ci pensi bene, poi uno dice no, sono partite diverse, sono cose diverse. E le persone normali, non quelli che stanno nei salotti della Sette, nei salotti e di altre. Nei salotti. Non c'è nessuno. No, salotto. Però è vero, uno vede, no, 17 miliardi dello Stato nostri per salvare le banche e va bene, ci sono mille motivi. Poi il sorteggio per la ricostruzione delle casette, è uno che deve pensare, cioè che deve pensare che c'ha ragione Becchi, le casette quelle del terremoto. Ma uno quella si è una vergogna, ma che cosa c'entra? Lo stesso Sgarbi dice ha ragione Locascio, ti stupirà, Sgarbi con Locascio, il nuovo, cioè, dovrebbe essere arruolato, noi con Cruciani, noi con Sgarbi insieme a Locascio. E poi se l'è incassato l'altro giorno quello lì che fanno vedere su YouTube, giustamente quello con la barba che aveva già protestato per il terremoto, che si lamentava dello stipendio di Fazio. Ora Fazio è un bravo ragazzo, tutto quello che vogliamo, ma certamente questo non vuol dire che tu non spendi i soldi per le case della gente che non ce le ha e sono lì a grattarsi le palle. Dimmi che adesso che distruggo questo paese, dimmi che distruggo le imprese, dimmelo. Tu sei uno di quelli che sta contribuendo in modo irreversibile ormai al declino di questo paese. Paese che si stava riprendendo, che ha anche della grande moralità, ha degli uomini tipo Bartolo che dovrebbe essere dichiarato senatore a vita. Questo Bartolo, il medico di Lampedusa, sì, Bartolo, no, dovrebbe ma questo essere qua, insieme a Boeri a si dovrebbero occupare dei conti dell'uno dei conti dell'Inps, giorno. Dei conti sfasciati, non certamente da altre cose. Non c'entra nulla l'arrivo degli immigrati con i conti dell'Inps che sono già sfasciati. Uno si occupasse dell'Inps e non di politica, dei politiche dei migranti e dei migratori. No, un altro si occupasse di accogliere l'accoglienza, fa il medico, eccetera. Giorno. Non si occupassero di come deve essere gestita la questione degli immigrati. Sono cose che non li riguardano. Però lui lo facessero sa, bene il loro mestiere e non rompessero i coglioni su questa storia dei militari, del blocco delle navi. Ma io eccetera, però non l'ho eccetera. Capito. Tu, Donato da Varese. Io voglio sentire Alberto da Roma. Alberto può da Roma parlare di qualunque cosa e invece una persona esperta come Bartolo no. Bartolo può dire la sua, noi siamo però detta, deputati infatti, a criticarlo. Io però ci sono opinioni che devono essere ascoltate di più. Ma noi le ascoltiamo e sanno di più. Ma chi l'ha non detto? È vero che uno vale uno. Questa minchiata che ha messo in giro. Non è vero che l'opinione di Donato da Varese vale quanto quella di Bartolo. Alberto no, da Roma, mi dispiace. Vai, Alberto. Perché Donato da Varese non sa un cazzo. Alberto, no, bisogna dire le cose. Alberto, sennò... dimmi, guarda che te lo scateno, Alberto, dimmi. Sì, devo. Io, se mi è permesso, devo fare un grande messaggio a un saluto a Donato da Varese. Perché saluto parlare con lui, mando un messaggio. Si capisce subito. Beh, ho capito, amico mio, però parla bene innanzitutto col telefono connesso bene, da una posizione comoda, sì. eccetera, perché altrimenti mi incazzo. Vabbè, adesso. Sì, dimmi Alberto, cosa vuoi dire al signor Donato? Allora, guardi. Prima di tutto un abbraccio a Donato da Varese. Bene, no, gli devo dire a Donato da Varese. Sì, sì. Che adesso lui si parlano tra di loro, si conoscono, tra di loro si parlano. Dovrebbe candidare Donato da Varese. Sì, ma perché lui è più addirittura è più lungimirante di Oriana. Sì. Di Oriana Fallaci, donato da Valese con Oriana Fallaci. Ma ragazzi, la stiamo toccando. Sì, ma sì, di cosa state parlando? Ma non devi permettere che si dica una cosa simile. Più non ci volate. Di Donato da Valese ce ne vorrebbero milioni. Ma cosa dite? Cosa è un grande. Va bene, Alberto, Valese, aspetta. Oriana Fallaci è una scrittrice, è una giornalista. Ma che dice? Il giudizio di Parenzo su Alberto da Roma dopo il GR. Banche di merda per i Monti dei Paschi e il buco del culo delle banche e non dare le case a quelle che non ce l'hanno. Ma dico, chiaro che uno si incazza. La Zanzara. Mi girano i coglioni, sono incazzato come una bestia. Ho sentito Tito Boeri che ha detto che per la mia pensione devo sperare che sbarchino i negri col barcone. No, non ha mica detto abbiamo rovinato l'INPS, scusate, abbiamo dato pensioni a gente che ha lavorato un giorno, scusateci. No, io per avere 6 o 700 euro al mese devo sperare che sbarchino quei sudici di negri dal barcone. Miserabili! Hai sentito quel gentile ascoltatore, David? Certo che l'ho sentito. Hai sentito, certo, o eri distratto? Hai sentito, no, no, o eri distratto? L'ho sentito, ma non è che alla vergogna non c'è mai fine ormai, no? È uno spettacolo quotidiano. Tu dici che questa è la pancia del paese, dici che questa è l'Italia vera. No, amici miei, questa qui è l'Italia peggiore, il volto peggiore di un'Italia che in realtà Cruciani artatamente vuole rappresentare. Perché invece l'Italia è l'Italia di Bartolo, è l'Italia delle organizzazioni non governative. È l'Italia che fa del bene, è l'Italia che vuole i migranti perché dice altrimenti un domani come faremo per le pensioni. Ma chi l'ha detto? Chi baderà? Ma non è vero. Sì, perché in un mondo di egoisti e di persone vero come voi che fate le gang bang, poi un domani cosa quando c'entrano? Diventi vecchio, c'entrano sempre quelle. Un domani quando sarai vecchio, chi ti verrà a mettere il catetere? Tu ormai ti stai approssimando a quell'età lì, beh, anche al catetere. Ho parlato anche con il tuo medico curante che mi ha detto che nel giro di pochi mesi purtroppo dovrai metterti questa piccola struttura. Ma non è vero, manco per ecco, niente. Chi verrà a togliertelo? Chi verrà a togliertelo? Avrai bisogno dei migranti. A quel punto dirai: ah, mi ricordo del giovane Parenzo che effettivamente diceva che avevamo bisogno dei migranti nel nostro paese. Un domani ma diventerà smettila sindaco di Milano come Sadiq Khan a Londra, un muslim come lo chiameresti tu, magari Spada di Fuoco, perché no? Bellissimo. No, quello abita dall'altra parte però. Non c'entra, Spada di Fuoco, sindaco di Belluno, è di Belluno Spada sì, di Fuoco? Sì, abita lì. Ecco, pare. Benissimo. Paco, Spada di Fuoco, sindaco di Belluno, ma è meraviglioso, è l'Italia, la modernità, è la contemporaneità. Sì, però ci sono cose che riguardano la casta che vorrei dirti, okay. La casta colpisce ancora, la casta colpisce ancora, stai a sentire. Allora, le auto blu, ti ricordi la promessa di Renzi? Sarebbero sì, diminuite, nessuno le doveva usare, però non è che dipende solo da Renzi, naturalmente, né dal governo. E soprattutto nei comuni in realtà le auto blu sono aumentate. Ecco, però non dipende da Renzi. Questo sì, non dire. Dipende dal governo. Dipende dai cioè, sindaci. Sì, però le auto blu sono aumentate, 9.000 auto blu in più. Il record a Oristano. Prima notizia. Seconda notizia. Avevano tolto il vitalizio a 3 deputati, in realtà a diversi deputati, condannati in via definitiva per pene superiori ai 2 anni. Ora questi qua, con un trucco, non un trucco, una cosa prevista dalla legge, una legge ridicola, una legge patetica, che dà la possibilità, attraverso la cosiddetta riabilitazione, che non si nega a nessuno, nemmeno ai peggiori delinquenti, dopo passato un po' di tempo, tu ottieni la riabilitazione, cioè un certificato che dice... Tu sei un cittadino nuovo, puoi riacquistare alcuni diritti, non è che la pena è cancellata. Questi qua, attraverso la riabilitazione, hanno riottenuto il vitalizio. Tutto secondo la legge, cioè, ti faccio un esempio. Abbatangelo, detenzione di esplosivi, sì, vecchio omissino fascista. 5.600 euro al mese, 100.000 di arretrati, erano stati sospesi. Uno pensava, vabbè, questo qua il vitalizio non lo prende più. No, non solo... hanno riprende il vitalizio perché ha ottenuto la riabilitazione, ma anche gli arretrati da quando era stato sospeso il vitalizio. Beh, ma però ragazzi, sai, se ha ottenuto la riabilitazione, ma non c'entra un cazzo la riabilitazione, non è che cancella la pena. Se sei stato condannato, sei stato condannato, che cosa, dai, sì, su questo un altro hai una De Carolis, uno che non so chi è, forse democristiano, non me lo ricordo, no, corruzione, una 3.000, brava persona, sarà una brava persona, condannato in via definitiva sembra per corruzione, 3.100 al mese, ho capito, lo conosco benissimo, De Carolis, 3.100 al mese di sì, vabbè, ho capito, ma che vuol dire, vabbè, insomma, perché lo conosci te, 3.100 no, euro al mese di vitalizio, conosco, però, sospeso, è stato riabilitato, 43.000 no. euro di arretrati, ecco, oltre... la parola chiave è riabilitato. Amico mio, io capisco che a casa tua tu vuoi fare i ma lo sai che veramente dovresti vergognarti, cioè per queste cose che dici dovresti vergognare, perché la riabilitazione non c'entra assolutamente nulla. Sei diventato proprio, ma non un grillo. Ma non è finita, tu sai chi sei? Neanche le tricoteuse. Le tricoteuse erano, quelle signore che stavano ai bordi, no, della ghigliottina e facevano la maglia. Tu sei il boia, non le tricoteuse ormai. Sei proprio tu, allora, all'epoca della rivoluzione francese saresti stato il capo dei ghigliottinatori. Questo sei Astone, Astone, condannato Astone, in via definitiva per concussione, un ex politico democristiano. Astone, concussione, 5.200 euro al mese, 46.000 di arretrati. Tutto questo grazie a una legge approvata, quella che ha fatto decadere il vitalizio a quelli condannati con pene superiori ai 2 anni, legge buffonesca, buffonesca, che prevede una scappatoia. Se tu ottieni la riabilitazione, di nuovo il vitalizio e pure gli arretrati. Andate, si può dire una cosa molto semplice, andate a fare in culo. Grillo non lo dice più, lo dico io, andate palesemente, sinceramente, semplicemente a fare in culo. Ma ragazzi miei, tenetevi forti, non è l'unica notizia di casta che arriva oggi. L'altra notizia incredibile è questa. Tutti voi che vi fate un culo così per procurarvi un biglietto per andare a un concerto, vi fate un mazzo così, magari i bagarini, magari i siti internet, oppure le file, le code, eccetera eccetera. Ci sono i politici di Milano, i politici di Milano che hanno due biglietti a testa, in tutto 500 biglietti circa, e vanno a gratis al concerto. È già un'altra cosa, cioè, a gratis al concerto. Milano, l'estate rock di politici assessori, corse e biglietti gratis per i concerti, tutto l'elenco, tra cui anche quelli che tuonano normalmente contro la casta, per esempio il direttore della Full Radio Padania, signor Morelli. Hai capito? Signor Morelli. Regalasse quei biglietti ai profughi. Allora, signor Morelli ha preso due biglietti. Vuole l'integrazione? Regalasse quei biglietti ai profughi. Ma che c'entra adesso? Due biglietti per il concerto di Van de Sfros, due biglietti per il concerto di Tiziano Ferro, due biglietti ancora per il concerto di Tiziano Ferro, non credo sia andato a tutti. Ancora due biglietti per un altro concerto di Tiziano Ferro, sempre a Milano. Due biglietti per il concerto di Depeche Mode, due biglietti per il concerto del Coldplay, due biglietti per il concerto di Coldplay, in tutto 14 biglietti. Dati il direttore della Padania Libera lì del radio. Allora, ragazzi, avete rotto i coglioni. Cancellate questo assurdo privilegio. I politici, gli assessori, il sindaco non devono avere i biglietti gratis. Me ne fotto che ci siano le convenzioni col comune. I biglietti gratis ai politici, no. Allora, dove andiamo? Andiamo a Gianluca dalla provincia di Lucca, vai. Pronto? Vai, dimmi Gianluca. Pronto? Dimmi. Buonasera Cruciani, certo, sì. Quando si ascolta queste notizie qui ti fanno cascare le braccia. Ah, ragazzi quella miei, che, dai, quello, politici quello gratis ai concerti ancora. No, ma quella è una cazzata. Sì, la legge, una cazzata, chiama la una cazzata. Berfa. No, una cazzata di... nei confronti ma è un della piccolo, legge è un piccolo prima. Privilegio, certamente. La legge beffa con questi. Siamo delle pecore, perché quando si va nello sgabuzzino non si cambia, siamo delle pecore. Parenzo com'è? Parenzo è un montone. Meglio essere montone che pecore, sì. Però, effettivamente. Sì, sì, hai ragione. Oggettivamente, no. Però, adesso, dal punto voglio di dire vista, una cosa, ragazzi: lui... questa cosa dei vitaliziati è incredibile. Io già sono contro la vitalizia. Ma io, 58 anni, ho Cruciani, è dal 2012 che sono disoccupato. Dio Cristo, no, è calma, dal 2000... calma. È un'imprecazione, non hai bestemmiato, però calma. Però, quando sento queste notizie qui, a me mi salizzano i capelli. Mi deve arrangiare. Ragazzi, condannati al vitalizio. Ho 33 anni di contributi. Io non ci faccio una pippa nulla con questi contributi, no, qui. Ma... in neri. Guarda, ti faccio salire la carogna in questo modo. Condannati al vitalizio. Abbatangelo, detenzione di esplosivi. Sì, 5.600 al mese, 100.000 di arretrati. De Carolis, corruzione, 3.100 al mese, 43.000 di arretrati. Astone, concussione, 5.200 al mese, 46.000 di arretrati. A me con 4 mesi di disoccupazione lo Stato mi ha dato un calcio nel culo, capito? Tre ex deputati condannati riottengono il vitalizio grazie, adesso questo è quello che dice Grillo, grazie al PD, ma vergogna, in realtà quella legge la è una vergogna. I migranti in Europa ci prendono tutti per il culo, capito? Perché questo non c'è dubbio. Quel politico che aveva Abatangelo, no? L'esplosivo aveva. Sì, perché lui è stato assolto per motivi di... Sì, aveva l'esplosivo materialmente, proprio. Detenzione di esplosivi. Era un mistino. Vabbè, Gianluca, allora ci pigliano per il culo. Ci pigliano per il culo. in Europa, la Francia ha detto io ne porti o ce li voglio, la Spagna ha detto io ne porti o ce li voglio, allora per un cavillo che internazionale abbiamo l'obbligo di prenderli noi, non ci abbiamo le strutture, Parenzo, a me mi dispiace di quella gente lì, ma è inutile prenderli, non ci abbiamo le strutture, vanno a dormire sotto ponti, fanno l'abbaraccamenti, è quella vita lì che volevano, ma perché noi dobbiamo Paolo, essere provincia di Alessandria, avanti tutta Paolo, adesso schiavi dei multinazionali, non esageriamo, Paolo pronto. Dalla provincia di Alessandria, vai. Sì, pronto, dimmi ciao. Che sto distruggendo il paese, Davide, dimmi che sto distruggendo il paese, no, dillo, ma, no, dillo. Senza, ma ormai sei quasi compiaciuto di quello che fai, mi la segnalano ragione, che per colpa ragione, tua ragione, ci sono delle imprese che non vogliono più investire in Italia perché c'è la zanzara addirittura, dici, sì è così te Paolo, lo dico io. Dimmi Paolo, dimmi, dicono, buonasera, mamma mia, ma Parenzo, che paese buonasera è Cruciani, dimmi, buonasera miserabile, io volevo semplicemente fare una domanda perché sono un po' ignorante e certe cose mi sono sfuggite, dimmi, dimmi. Certo. Quali sono i politici e quando è stato che hanno deciso di incominciare a dare queste cifre agli immigrati che vengono corrisposte periodicamente e il telefono e queste, come si può dire? Sì, 35 euro al giorno, tutti allora, questi benefit. Mettiamo in ordine quelli due o tre cosine. Non danno benefit. Telefono, mettiamo in ordine come due o no? tre danno cosine. Telefono, primo, allora, scheda telefonica, come no? Chi danno ha una scheda telefonica. Chi ha deciso? Ma cosa vuol chi dire? Chi ha deciso e quando? Lo Stato, il Ministero degli Interni. Ma cosa vuol dire? Hanno deciso? Cosa perfetto, vuol dire? Non quando? Devono avere un telefonino per chiamare a amico casa mio, dire siamo mio, arrivati sani e salvi. È tutto un business, quello che si chiama in gergo un magna, ma esattamente è proprio perché così. Non parli come quello? È tutto un business. No, un business. Io dico business normale. Quelli che dicono un business. No, ma quando è incominciata questa cosa? Le parole, non lo so, che cazzo mi vuoi dire questa parola? Quando è cominciata? È la quarta volta che me lo dici. Che vuoi dire Paolo? Che vuoi dire? No, lo volevo sapere. Ma quando è cominciata? È cominciata qualche anno fa, dopodiché abbiamo avuto tutto chiaro nella vicenda di Roma Capitale, cioè, ma è evidente dove si mettono insieme fascisti e gente di sinistra per fare i quattrini, per fare i soldi, certamente alle spalle, ma non alle spalle perché grazie all'immigrazione. Sì, ma quando è incominciata questa cosa? Marida, ma adesso ti do due schiaffi. Cioè... non ero io adesso. lo so, affanculo. Fermi tutti, fermi. Poltrini, scusami, sei una brava ragazza. Poltrini, sei un'amica dei cristiani ed è morta. Intervengano i commessi. Poltrini, ed è morta. Quando è che chiudete, cornuti? Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Nilox.com, dove la tecnologia diventa sport. La Zanzara. Naturalmente. Cruciani, sono arrivato ormai al 13° giorno di moglie e figlie in vacanza. Sto usando la stessa tazza per la colazione, lo stesso piatto e le stesse lenzuola. Mancano 13 giorni. Ce la farò. Allora, voglio darvi alcuni spunti ancora. Caro David, profilo Facebook, Twitter di Fazio. Sì. Twitter di Fabio Fazio. Sì. A un certo punto posta, chiamiamolo così, la frase di un anonimo. Ma può un professionista come Fazio sopportare tanto a lungo tutto questo? Ti giuro, la frase è scritta da un anonimo su Twitter. Ma può un professionista come Fazio sopportare tanto a lungo tutto questo? E lui, oltre a pubblicare questa roba sul suo profilo Twitter, scrive sì. Ma soprattutto grazie mille per queste parole che sono sempre della stessa persona. Adesso, amico mio, va bene tutto. E la gente su Twitter, su Facebook si accanisce, ne dice di tutti i colori. Appunto. Ma cosa devi sopportare, amico mio? Ma che cos'è? Un calvario? Cioè, cosa sei? Stai portando la croce con 1.8 milioni all'anno in tasca? Ma di che parliamo? Uno può rimanerci male comunque. Ma può un professionista come Fazio? Ma linciato da chi? Ma chi lo lincia? Viene virtualmente linciato da questa opinione pubblica falsa, diciamo, alimentata dai social network. Diciamo che piacciono tanto a te. È molto sopportabile questa cosa. È molto sopportabile. Diciamola tutta. È grandemente sopportabile questa cosa qui. Ieri sera durante la trasmissione della vostra parte alcuni tifosi del Napoli in e collegamento. Tanto che non citavi dalla vostra parte. Eh sì, perché ormai non c'è più Belpietro, non c'è più Battaglia. Hanno deciso di eliminare gli immigrati, i Rom, tutte le cose. No, ma tanto per dirti che cos'è questo paese. A me mi scrivono migliaia, dico centinaia di persone ogni giorno dicendomi grazie. Ma che vuol dire? Dicendomi mitico... grazie per che cosa? Scusa. Dicendomi grazie a me, per quello a me che c'è fai, per come combatti da sei anni in questa parte. Anche quello. Però ad esempio, diciamo una cosa per tutti. Giovanni Coviello. Tu dici chi è Giovanni Coviello? Uno può dire, vabbè, e che può dire chi è? Il grande Giovanni Coviello è un grande cittadino italiano, ad esempio, cittadino italiano che veramente dice: io ascolto tutte le sere questa trasmissione perché c'è lei. Perché lei finalmente rappresenta il paese in modo non così distorto e macchiettistico come fa quel distruttore di imprese. Così ti ha definito giustamente, vabbè, quel distruttore di imprese. Mi fai dire una cosa? Allora, no, ma fai un appello anche tu a Coviello, abbraccialo, perché culo, è l'Italia migliore. Ma non me lo culo proprio questo Coviello. Come ti permetti? Ma va assolutamente Giovanni culo Coviello proprio. È l'Italia migliore. Ma è sì, l'Italia silenziosa che non chiama. Perché non chiama? Perché lui lavora, fa l'assicuratore, va in giro tutti i giorni in macchina. Lui non chiama, non telefona, non è come questi perdigiorno che chiamano. Poi guarda caso, se ci fai caso, no? Sì, in una settimana Donato da Varese quante volte chiamerà? No, almeno tre zero. O quattro. No, ma che dici? No, perché lui prova, poi no, tre o quattro, non ha niente da fare tutto il giorno e intasa i centralini. Ma non è vero. E chi lavora, la maggioranza silenziosa, non telefona. È la controprova di questo. E quanti Coviello ci sono in Italia? Pieno. Grazie a voi che lavorate. Grazie, continuate ad ascoltarci. Allora, sono qui a combattere per voi, a rappresentarvi. Voci di napoletani dopo la penosa festa di ieri per la cittadinanza onoraria a Maradona. Dalla vostra parte, senti. Che cosa pensi di tutte queste polemiche che ci sono state? Polemiche inutili dettate dai social, da radio che non hanno nulla da dire per 2-3 ore di programma tutti i giorni e quindi hanno creato una polemica inutile sul nulla. Che alla fine lui ha detto che non ha preso nessun denaro, insomma, poi la cittadinanza è data al comune. A radio che non dicono nulla per 2-3 ore, amici miei. L'Italia avete dato la cittadinanza onoraria a uno che si è presentato ubriaco. Ubriaco totalmente. Questo vabbè, è il punto. Ma vedi che Italia. Questo vedi è il punto. Roba. Di Battista, ti faccio sentire Di Battista che chi attacca è Di tutti. Battista? Di Battista dei 5 dei 5 stars, dei 5 stars. Ah, peraltro, fammi dire un'altra cosettina, così dai, mi tolgo un altro sasso su, dalle scarpe. Dai. No, dalla scarpa, perché mi attaccano i 5 stelle soprattutto su Twitter, perché ho intervistato Dell'Utri e sono andato in carcere. Di te hai dato la parola a Marcello Dell'Utri. Andassero a fare in culo, gliel'hai detto, andassero a fare. No, in culo. Ma oltre oltre sì, bravissimo. Oltre a questo, io dico, ma io ne farei 50.000 di interviste. Certo. Quando intervisterai anche o Bin Laden? Dico, Bin Laden purtroppo è morto, ma altrimenti l'avrei intervistato molto volentieri. Ma certo. Chi non si fa intervistare invece si chiama Casaleggio. Ecco, c'è una differenza. Dell'Utri, Casaleggio. Dell'Utri si fa intervistare. Questa è forte, questa è forte. No, ma questa è così. Questa è forte. Ma mi dispiace, perché è così. No, però è vero. Perché tu. No, tu dici Dell'Utri avrà un interesse perché è in carcere, ma in genere un politico si fa intervistare, anche un criminale si fa intervistare, anche un Rom si fa intervistare, i Rom si fanno intervistare. Mi sai spiegare tu perché ad esempio Casaleggio non si fa intervistare? Spiegamelo tu, non lo so. Di Battista sugli africani. Ma chi è Di Battista? 5 stars. Ah, otto. Come dissi nel primo intervento sull'immigrazione in Parlamento, credo 4 anni fa, i cittadini africani devono stare a casa loro, non devono stare a casa loro alla leghista, ma devono stare a casa loro perché quella è casa loro. Io ho lavorato in Congo e nessuno voleva scappare dal Congo. Adesso questo francamente, devo dire la verità, è una puttanata. Ah, cioè dire male. No, ma non è dire proclamare. Ma non volevo i cittadini, dirlo io perché sennò sembra che no, ce l'abbia proclamare che non i cittadini è. Africani devono rimanere in Africa. È una puttanata perché comunque non è possibile una cosa di questo tipo, perché comunque piccole quote di immigrati, di gente competente, gente che ci serve, eccetera, è auspicabile. Il punto è un altro. Di Battista è inutile che vuol dire dice sì, dico così però non come la Lega, no, uguale, identico. Identico. Cioè, non lo dico alla leghista, ma come no? Lo dice esattamente alla leghista, uguale, identico. Sì, magari non urla però. Ma sì, ma che c'entra? Guarda, a parte che urla lo stesso. Appunto. Ma non è vero, urla. No, dico non l'ha detto urlando. Ma sì, vabbè, capito. Io, David Parenzo, voglio bene a Dell'Utri. Voglio bene a Dell'Utri. Allora, il nostro... di rimandare questo vecchio audio decontestualizzato, peraltro. Cioè, vedi cosa vuol dire atteggiamento criminale che fa indignare i tanti Coviello, i tanti Franceschini, i tanti Martina, che non è il ministro. Allora, Martino, Tavecchio, ovviamente, ma cioè... Tavecchio, presidente della Federcalcio, dice che negli stadi ci vuole la lap dance, ragazzi. Guarda, io non ce la faccio Tavecchio. Più. Non ce la faccio più in questo paese. Tavecchio. E commissione antimafia, Tavecchio accanto alla Bindi che lo guarda dicendo: ma veramente l'ha detta sta cosa? Cioè, signor Tavecchio, il presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, dice che negli stadi ci vuole la lap dance. Ma è mai stato a fare una gita negli stadi europei? Non c'è la lap dance. Non c'è la lap dance. Vai pazzo, eh. Gli stadi non sono più ambienti dove si deve giocare solo a calcio, secondo le nuove prerogative. Gli stadi devono vivere. Negli stadi ci deve andare il supermercato, la farmacia, la lap dance, ci deve andare l'incontro con la politica, ci deve fare l'attività sociale. Stiamo parlando, si deve fare il business negli stadi, i quattrini, non l'attività sociale, gli incontri con la politica. Ma già non ne possiamo più degli incontri con la politica negli stadi per farsi pigliare a pietrate dai tifosi. Ma guarda che è incredibile sta cosa, sì, qua. Su questo hai ragione. La lap dance, la lap dance. Ma dove l'ha vista la lap dance? La lap dance non esiste più. Guarda che è incredibile. No, forse lui va in alcuni locali. Ma è chiaro che uno voleva dire che ci vuole, come dire, gli stadi non dovrebbero essere. Ma prende esempio dagli stadi che ci sono in Europa, dove c'è business. Bravo. Le scommesse, la birra, i ristoranti, eccetera. La lap dance, le attività sociali, gli incontri con la politica. Ma di che parla? È il capo del calcio, di che parla? La lap dance. Ma quale lap dance? Ma dove ce l'hai la lap dance? A Como? Ma dai, Giovanni Reggio Calabria, vai. Giovanni, ma che è? Giovanni Reggio, non mi dire che mi emoziono. Giovanni? Sì. Dimmi Giovanni, sono emozionato. Dimmi. Oh mamma mia, ecco, questo è miserabile. Io emozionato no, sono arrabbiato io. Che è successo, Giovanni? Prima di tutto volevo dire a Parenza, come si chiama? Parenza, che perfetto. Una sera ha chiamato, quando partiva, una sera ha chiamato a Coso, a Lenin. Chi? Ha chiamato Lenin a Coso, come si chiama? Come Lenin? A Ciroso, no, Lenin non è possibile che abbia chiamato. A Fusaro, sì, Fusaro. A Fusaro, l'ha chiamato Lenin, perché è marxista. Sì. E poi non sa che Socrate non ha scritto niente, che se c'è qualcosa di Socrate lo dobbiamo a Platone, che ha fatto l'apologia. Vabbè, allora... Questi imbecilli qua... Questo imbecille che si spaccia comunista, che si spaccia ebreo, è un povero disgraziato. E non aggiungo altro per non acculturarlo. E Macron, no, come Macron? No, non ti voglio dire altro sull'argomento. Poi no, ti ma ti dire... prego, dimmi che sono come Macron. Come Macron? Come Macron? Macron, hai visto Macron? Hai visto che l'ha messo. Macron, te l'ha messo in... Hai visto che il servizio ti sta facendo... Macron, hai visto? Macron. Guarda, prendi. Pensa e porta a casa. Hai visto? Aspetta un attimo, Giovanni, aspetta un secondo. Abbassa la radio che c'hai dietro, che sento là. Capisco che senti poco, magari. Però chiudi la radio, se no sento il ritorno. No, guarda, chiudi la radio e tira anche l'acqua del water. 30 così secondi salutiamo. E torniamo col mitologico Giovanni da Reggio Calabria. No. Quello ma di Macron. No. Chiedo scusa, un momento. Chiedo scusa, pubblicità. La zanzara. Perché tu sei riccione, tu sei. Quell'erami, merda, quell'erami. Tu sei riccione come Macron, come Macron. È tornato Giovanni, vai all'attacco. È tornato. E un'altra cosa, io volevo dire un'amica che è al pediatro, all'ospedale, in pediatria, sì. E dice che arrivano bambini ammalati, sì, di morbillo, rotolia, tutti e pieni di pidocchi. Ora gli voglio dire, ma bambini come? Che bambini? All'ebreo musulmano, sì. Gli voglio dire all'ebreo musulmano, ti vieni qua a Reggio Calabria, sì, l'ospedale ti prende su due ragazzini ad adottarli. Ah, tu dici che sono parole. Ma sono immigrati questi qua? Sono a Reggio, vengono mica questi ragazzi negri, sì, e vengono qua a Reggio Calabria, sì, vengono all'ospedale, un pediatrico, sì, e sono pieni di pidocci. Ma che problema è? Sono pieni, si curano, si lavano i capelli, si sistemano, dov'è il problema? I pidocchi ce l'ha avuti anche mia figlia. Ce l'ha avuto anche mia figlia. Anche tu hai i pidocchi, ma ce li hai stabili nel cervello, i pidocchi, tu stabili, fissi li hai. Tu hai i pidocchi nel cervello, bene. Hai i pidocchi fissi nel cervello, però poveretto, non c'è cura. Poveretto, c'è come un povero disgraziato. Ma c'è chi un poveraccio, guarda, c'è ma un povero disgraziato. Disgraziato sei tu. E ho chiuso, fai una remissione, chiudo, guarda, non ti voglio vedere, faccio fallire alla sette, la faccio fallire. Ma no, ma come fai a fare la brutta? Ma come non vedere la faccia brutta. Beh, scusami Giovanni, ma parlami di Macron un attimo. Che effetto ti ha fatto Giovanni Macron? L'intervista a Giovanni. Ah, ha fatto un effetto meraviglioso. Ci credevamo, ecco, che fosse è meglio lui della Le Pen. Da nazista, lo dico. Meglio lui della, come da nazista? Della, ah, lui dice da nazista. Un culo ai comunisti. Cioè, facciamo un attimo il punto. Questo ascoltatore... Mai. Questo ascoltatore, che politologo, hai detto con cinque mani? Questo ascoltatore trattato come fosse un Galli della Loggia, un politologo da Cruciani, quindi fa l'intervista su Macron, non vuol sentire parlare di Macron, Cruciani. Poi trova il coglione di Reggio Calabria e gli fa l'intervista su Macron, questo statista da Reggio Calabria dice da nazista, conferma, dice da nazista, questo dà l'endorsement, sì, meglio, a Macron. Meglio che abbia vinto Macron, meglio che abbia vinto Macron. Socrate ha scritto, che ha scritto Socrate, imbecille, ignorante, tu è quello là dell'Inps che ci sta mangiando vivi, che boeri, che dobbiamo portare i negri, che dove saranno la risorsa, saranno, sì, cremo, sì, tutti. Allora, certo, che sono la risorsa. Ma come dire, se i ragazzi italiani stanno andando all'estero, disgraziato, brutto, che sei. Brutto, sei comunista, sei ebreo e sei pure musulmano. Ma che cazzo, no, di uomo sei? Non è possibile. Io sono nazista e basta. No, ma è nazista, non è ancora bello. Più semplice. Ho il coraggio di dirlo. No, tu però Giovanni, questo non è bello. Malato di mente questo. No, qui, nazista non è bello. Ma scusa, nell'ordine, Giovanni, comunista, ebreo e anche musulmano è difficile però. Parliamo di Stalin. Senti per bene, no, Stalin. 40 milioni di ebrei. Parliamo di Mao. Parliamo di Sendero Luminoso. Che tu hai fatto la... Quello devi chiedere a Cruciani, ci ha fatto la tesi su quello. Però adesso non parliamo di altro. Perché ti proclami nazista, Giovanni? Spiegami. Ecco, ecco la tesi. Perché è non ne posso più dei comunisti. Ma non ci comunisti. Sono. Non esistono più. Ma non ne posso più dei comunisti. Ma tu, ce ne può più dei comunisti. Sei rimasto indietro però. Sei rimasto... Ce ne può più di Renzi. Ce ne può più di loro. Quello tu, Iussore, che cos'è? Io avevo detto a mia moglie, Nillo Tempore, guarda che ce ne faranno lo spare. Prima che succedesse, sì, Nillo Tempore, parlo pure in latino io, sì, che ti fa schifo. Allora, no, io ho detto, mi fai schifo, tu mi fai schifo. Questo non l'avevo detto in tempo, come dicono i comunisti non sospetti. Sì. Ce li stanno facendo. Cos'è che dicono? Perché devo portare un nevetto? Che io ho due nipotine, sì, bellissime, che li mandiamo avanti a stretto. Due nipotine meravigliose, ci sono state promosse. Una per la seconda media, tutte e male. E una... Sì, cosa hanno fatto? Una tesina sul nazismo? Ma che c'entra? Con l'adorato nonno? Cosa hanno fatto? Una tesina sul nazismo? Ma scusa, non bisogna essere... Senti, poveretto, sì, povero disgraziato. Non ti è disgraziato, povero disgraziato. Scusa. Tu hai detto a quello là che è un coniglio fascista. Dillo a me che sono un coniglio nazista. Ma no, ma non è bello essere nazisti. Scusa, nazisti non è bello. Spiegaglielo. Non è bello, Giovanni, scusami. Nazisti hanno ammazzato un sacco di gente. Se tu sapessi in giro di Reggio Calabria quanti nazisti ci sono, no, avresti la paura, scappereste dall'Italia. Però se ci sono sapessi, anche altri problemi. Io non sono minoranza silenziosa, io lo dico. Quanta minoranza silenziosa che c'è a Reggio, che è nazista, ma no, che ma non ne può più del comunismo. Ma che non c'è comunismo? Ma dove vive questa? Ma l'hanno scongelata. Questa è gente che deve essere bruciata viva. Ma no, sì, bruciata, no, viva. Ma Giovanni, bruciata Giovanni, viva. Giovanni, dai, Giovanni, Giovanni. Però non è macroniano quello che lei dice, eh? No, non è molto in linea con Macron. Macroniano. Ora sono trampiano e macroniano. Macroniano, avete detto, io avevo detto a mia moglie, voglio che perda la moglie. Sempre la moglie. L'unica che lo ascolta, l'ha tratta come un matto. Voglio che perda. Quando mi ritrovo la testa a suo padre. Dice, sì, sì, amore, penso, parla pure, amore. Perché pure io sono negazionista. Povera donna, pure. Povera donna quella signora. Povera signora. Poveretta, no. Poveretta la moglie. Cosa deve subire la moglie? Mia moglie, mia moglie, guarda, perché no? Poverina. Poverina. Sempre questa cosa. Guarda, se io attacco con tua moglie. Poverina, cosa deve subire ogni giorno di sentire le tue cose sul nazismo? Poverina, povera signora! Non povera signora, orgogliosa, perché ho avuto il coraggio. Scusa, Giovanni. Io ho avuto sempre il coraggio. Sì, sì, ma i comunisti, l'ho detto, ma lei deve avere il coraggio di farsi curare. I fatti di Reggio, quando sono stati fatti. Ma lei deve avere il coraggio di andare in una struttura sanitaria adeguata, altro che... Scusa. Qua italiano, ma chi è che parla? Non capisco. Macron parla. Ma, scusami Giovanni, guarda, Giovanni, guarda, scusami, quando ha vinto Macron, sì, sì, ha visto del lavoro che vi sta facendo Macron, ha vedi a chi ha invitato, a Trump, per il 14 luglio. Scusami Giovanni, scusami un attimo, un'ultima cosa, ma tu che ne pensi degli omosessuali? Guarda, ho avuto tanti amici, pure artisti, perché io sono un grande appassionato di teatro. Sì, lo sapevamo. Di lirica poi, guarda, non vedo nessuno. Sì. Di musica classica non vedo nessuno. Gli omosessuali. Io ho avuto amici che erano tenori, tenori, specialmente i tenori leggeri, erano omosessuali. Sì. I migliori amici miei, attori di prova. Allora? E allora, erano amici miei, però mantenevo il distacco, uscivo sul corso con loro. Potevo fare tanti nomi, un attore non li fa perché furoreggiava in televisione. Vabbè, allora gli ho detto: Paolo, non ci esce niente. Io ti rispetto perché sei un grande attore di prosa. Potevi dire il cognome, però non c'è, io vado con le donne. Vado con le donne bellissime. Vabbè, io ho avuto l'opportunità di avere le blu belle. Ma che ti piacciono i gay? Parenza, le blu belle. Io me li portavo su una moto, ho avuto ultimamente l'ultima che ho portato era l'onore rossicidato. Io certo che lei da quando ha smesso di prendere quel farmaco lì è impazzito. Però con i cosiddetti gay, no, perché questo esibizionismo? Perché se loro facessero le cose di nascosto possono di fare nascosto, quello che di nascosto, vogliono, di nascosto. Ma questo esibizionismo no, per carità. Ciao Giovanni, ciao, ti saluto, ciao. Ciao, bello, ciao. Ma sai tutto, solo culo niente, capito? Sì, questo l'ho capito, cioè tutto, anche rapporto, tutto. Sì, culo niente. Sì, ma questo l'ho capito, culo niente, questo ho capito. Vuole massaggio romantico. Culo niente. Per una notte romantica. Culo niente. Impreparato mi coglie. Ehi, cosa fa? Capito? Chi glielo spiega a mia moglie? Massaggio tutto. Vai col massaggio romantico. Oh, oh. Vai con la notte romantica. Ah, ah, ah. Ma quanto è brava la Cina. Sì, solo culo niente, capito? Nell'arte della... Ma questo l'ho capito, culo niente, questo ho capito. Manina. La lab dance. La zanzara. Salve dottor Parenzo, io sono un fiero membro della maggioranza silenziosa e oggi ho portato la mia amata, siamo andati a teatro, siamo andati a cena fuori, le ho comprato delle rose da un cercatore di felicità, l'ho portata davanti San Pietro a vedere il cielo, le stelle. E ora amore mio, cosa facciamo? E ora ti squirto in faccia. A molle! Ammetto di non essere un pozzo di scienza, ma quando parla sto filosofo non ci capisco un cazzo. Crucia, sciacqua da Hulk quando parli di Maradona. Tu e Titta e tutti sti cornuti di Juventini che chiamano. Hai capito? Staluto, tu e chissà tu ricchione che tieni a fianco. Allora ragazzi, preparatevi all'incazzatura mondiale, preparatevi all'incazzatura mondiale, caro Parenzo. Come ti ho detto prima, c'è un gruppo di politici, praticamente tutti quelli che appartengono al Consiglio Comunale di Milano, i quali hanno da anni ovviamente gratis i biglietti per ogni evento legato a San Siro. Leggo su un quotidiano certo non particolarmente sfavorevole all'attuale amministrazione, cioè il quotidiano La Repubblica, che scrive: Milano, l'estate rock di politici e assessori, corsa ai biglietti gratis per i concerti. Praticamente tutti i politici prendono due biglietti a testa anche per lo stesso concerto replicato più volte, in totale 14 biglietti a persona, 486 tagliandi per i consiglieri comunali, assessori, eccetera eccetera. Tra queste persone, cioè queste persone, c'è anche l'assessore Maria Carmela Rozza, Partito Democratico. Facciamo una telefonatina. Pronto? Assessore? Sì? Qui siamo alla Zanzara, Cruciani Parenzo, buonasera. Eccomi, oh, cara, buonasera. Ciao. Come andiamo? Come stai, cara? Ma a parte il raffreddore, bene. Questo mi dispiace. Assessore, mi dispiace, ma mi dispiace che hai il raffreddore. Leggo di un'estate... Devo dare del tu perché la conosco da tanti anni, la signora. Dalle del tu. E leggo non di posso fingere. No, non fingete assolutamente. E leggo di un'estate rock di politici assessori, biglietti a go-go gratis per i concerti. Come mai? Però. Ma guardi, per me è un film che si ripete ogni anno. Io ritiro tutti i biglietti delle partite e dei concerti. Perché sono biglietti che non sono vendibili e li distribuisco a chiunque me li richiede. Cioè agli amici? No. Beh, sì, io li distribuivano gente dei quartieri popolari, gente che conosco, perché ho capito, amici. Il gente dei quartieri popolari, però mi pare una bella scelta. Scusi, assessore, bisogna essere chiari, non è che uno li dà in giro per strada così ai primi che arrivano. Li darà No, proprio per questo li do a persone che io conosco, perché non posso rischiare di avere il bancarino. Ma guardi che i miei numeri, se vogliamo chiamarli amici, allora nei quartieri popolari una marea di amici. No, va bene, ma adesso non è che uno è i quartieri popolari, non è che lo sappiamo, lei magari lo dà a sua cugina, a sua nipote, a un'amica, non c'è niente di strano. Anche può capitare, come per esempio sono contenta di aver fatto in modo che degli anziani andassero a vedersi la partita, che non c'erano mai stati a San Siro, o degli anziani che io conosco, però vedi, Rosa, che sono il fatto che sia Scala. Discrezione, però la cosa un po' strana adesso, tu fai un'opera meritoria e pia, però non è un fatto politico, cioè questi biglietti tu potresti anche tranquillamente regalarli anche al Cruciani di turno, cioè è una tua non discrezione dire... Ecco, questo è il punto. A parte vero. Che non è vero, potrebbero essere tranquillamente. Non si capisce perché i politici debbano avere assessori e consiglieri comunali, debbano avere questi biglietti di riserva. Cioè, perché potrebbero essere tranquilli? Come no? No, mi scusi. Allora, c'è una convenzione tra il comune di Milano e lo stadio, perché lo stadio è nostro, e noi adesso non so quanti biglietti, credo che il comune riceva circa 1.600. Ma perché deve ricevere questi biglietti? Perché? Perché questi all'interno di una convenzione stabilita sono biglietti che non possono essere messi in vendita. Ma no, non è vero, se uno li elimina e non li dà ai politici e agli assessori, li potrebbe mettere in vendita tranquillamente. No, non può. Ma non può, perché avete fatto voi la convenzione, guardi, perché volete i biglietti. No, ma mi scusi, ma guardi, non è un problema. Per esempio, i biglietti per la prima della la Scala, che possono essere in vendita, nessuno se li prende e li mettiamo in vendita. Sì, d'accordo, però e il punto... ci finanziamo azioni sociali. Io leggo qua Rosa Maria Carmela, due biglietti per Vandes Fross, due biglietti per Tiziano Ferro, due biglietti... Ma glielo dico io, non c'è bisogno che me li leggi, glielo dico io. Allora, presi tutti e li ha dati agli amici, va bene, d'accordo. I biglietti e li do a persone che io conosco e che non possono rischiare, perché non posso rischiare che me li venda un bagarino. Ho capito, li ha dati magari a qualche nipote? A sua figlia? No. A cosa? No. No, io figli non ne ho. Non è, vabbè. Però voglio dire, signora Rosa, la cosa è abbastanza strana. La gente si fa un mazzo così per prendere i biglietti dei concerti, li paga anche ai bagarini un sacco di soldi. Poi arriva il politico, eccetera, che può andare gratis al concerto. Non solo può andare gratis, ma li può dare pure agli amici. Beh, la gente si incazza, o no? Nel momento in cui ci sono dei biglietti in dotazione al Comune di Milano che vengono riconosciute ad associazioni, a tutti i soggetti possibili e immaginabili, compresi gli assessori e i consiglieri comunali, io non vedo nessuna arroganza. No, ma non è l'arroganza, è il fatto che, scusi, io le ho detto benissimo. Però non ha molto senso che siano questi biglietti nella disposizione dei politici, è solo questa la questione, cara. Scusi io un attimo, lei vedo tutti questi biglietti che mi ha detto, no? È mai andata a uno di questi concerti, lei? Quest'anno io non sono andato a nessun concerto. Detto, lei prende i biglietti e non va a nessun concerto. Benissimo, Coldplay, due volte Coldplay. Non sono andato, è andato il mio compagno a un concerto dei Coldplay. Non ho nulla da nascondere. Come l'anno scorso al concerto di Vasco Rossi, vi assicuro che ci sono andata. Lei è andata a Vasco Rossi l'anno scorso, quest'anno il suo compagno al concerto dei Coldplay. Esatto. A gratis. Sì. Però ecco, vede, la gente accompagnando la minore. Però scusi un attimo, signora Rozza. Ma è la normativa, è la cosa che forse no, va ma cambiata. Di fronte non al fatto, lei, di fronte Rozza, al fatto che il suo compagno. No, io non sono serenissima. Mi no, il suo compagno, cioè, bisognerebbe questa cosa qua eliminarla, cioè, perché questa qua la gente si fa un mazzo così per procurarsi i biglietti, poi arriva il suo compagno. Su tutto si può dire al politico che qualsiasi cosa che faccia o qualsiasi cosa che ha come elemento ha per il ruolo istituzionale che ricopre, no? è un privilegio. Io credo Beh, è un privilegio, la qualità non ha senso, però. Della classe politica si valuta sulle cose che Ma io sono d'accordo con lei, però questo piccolo privilegio non serve, non ha senso. Non è un privilegio dedicato a noi e non ad altri. Le ho detto, noi ne riceviamo 1600 e non vengono distribuiti tra i assessori 1600. Ma no, ma sono 486 sono in tutto. Sono una parte dei 1600. Dunque lei dice che questa roba qui non è privilegio. Nella maniera più assoluta. Perché il suo compagno va gratis e il ragazzo di 25 anni si deve fare un mazzo così con i bagarini per procurarsi il biglietto? Me lo spiega questo piccolo concetto? Perché il suo compagno va gratis? Beh, è come quando io vado in giro e mi viene con me il mio compagno, il sindaco si muove e porta con sé la sua compagna. Ma che c'entra? Che va con... Assessore, se il suo compagno va gratis a un concerto e il ragazzo di 25 anni paga 50-100 euro, e non si capisce perché il suo compagno è privilegiato rispetto a questo ragazzo. Che merito ha? Che titolo ha? Insisto, il privilegio sta nel fatto che io ho sottratto alla cittadinanza delle risorse. No, ma non è solo quello. Non è, a parte che qui a favore di una mina e di un gruppetto. Non sto rispettando il bisogno. Lei non mi risponde a questa domanda. Perché il suo compagno ha un biglietto gratis sul ragazzo di 25 anni per andare con lei? Perché conosce lei? Ma basta questa risposta. Come le altre persone che vanno al concerto a cui io ho ceduto i biglietti. Sì, sì, per carità. Perché ha il privilegio di conoscere l'assessore. Oh, va bene così? Benissimo. Grazie. Vabbè, però è così. Però è un privilegio, appunto, l'ha detto lei. No, per me non è un privilegio. E aggiungo anche che vale per tutte le autorità civili e militari il fatto che abbiano gli inviti in una sede di luoghi sbagliatissimo, dovrebbero pagare. Guardi, tutti, io sono convinta che personalmente, perché io sono sempre, quando faccio le cose come vede non mi, ma io non dico che lei è una ladra, no, ma ci mancherebbe altro, no, ma dico semplicemente che ha un privilegio, che in particolare il suo compagno io credo che tutti i politici hanno abusato. Questo è un piccolo abuso, a mio parere è un piccolo abuso. Delle risorse pubbliche. Va bene. E quindi quando la politica abusa delle risorse pubbliche va sanzionata. Questo è un... Quando la politica usa correttamente le risorse pubbliche. Ma questo è un altro discorso, però. Questo è un benefit, casomai, ma non è un... Esatto, un benefit, cioè un privilegio. Certo. Grazie, arrivederci. Grazie. Non volevo farle cambiare l'opinione. No, grazie, assessore. Grazie. E arrivederci. Gelato al cioccolato, dolce un po' salato, tu gelato al cioccolato. La Zanzara. Mezzanotte e mezzo in Indonesia e sto aspettando che cominci la trasmissione. Mi avete rovinato la vita, bastardi. La Zanzara. Andiamo avanti. Vabbè. Mario da Roma, avanti. Che c'hai contro Mario adesso? Perché subito? No, non lo so, perché tu hai la fissazione che chi è chiama è un caravan di miserabili, però dai, sentiamo. Ma tu hai avanti la fissazione che chi chiama, chi chiama è sicuramente appartenente alla, come la chiami ma tu? Una persona normale, sicuramente una persona normale, ben educata, istruita, si legge un libro o ascolta la musica classica. Ma perché la radio non la può ascoltare, sì. No, ascolta la radio, ma non ride chiama, sentendo ma non le puttanate che dicono questi miserabili che chiamano, ma non chiama l'esponente della maggioranza silenziosa, se non quando viene colto nel vivo e quando la misura è colma. Solo in quel caso lì chiama. Quando la misura è colma. Quando la misura è colma, allora, la maggioranza silenziosa vai. Interviene. Mario, vai. Sì, pronto? Dimmi Mario, dimmi. Buonasera, ascolti, volevo segnalare un fatto che settimana scorsa nel nostro parlamento stai parlando con viva voce auricolare? No, purtroppo che non c'è il telefonino. Sì, no, ma hai sei collegato con l'auricolare? No, vabbè, dai, vai. No. Sono stati occupati due appartamenti nel nostro palazzo. Dove? In che zona? A Roma, a Monte Sacro. Sì, vabbè. Una zona non popolare. Ma da chi sono stati occupati? Non lo so, perché io quando ho sentito il rumore che stavano venendo da altri piani... Sì, però scusami Mario, non è che la gente... Chiami la polizia allora. Chiamate la polizia. Chiami la polizia, chiami Salvini. Bravo, volevo arrivarci anche a questo. Ecco. Sono uscito di casa, sono andato lì, ho visto 3-4 persone grosse, tatuatissime, e che stavano rompendo... Grosse e tatuatissime? Una... Sì. Tatuate. Chiami la polizia. Bravo, mi dico, dire bravo. Vai, dimmi, dai. Insomma, stavano rompendo con grossi arnesi un... Vabbè, okay, ma che cazzo di palazzo abita lei? Scusi, Mario, ma dove abitate? Nel Bronx, non ho capito. Nell'ex Bronx. Quello che mi sta chiedendo, ho provato a telefonare subito, loro nel frattempo avevano rotto la porta, erano entrati e hanno chiuso la porta. E io di corsa sono sceso giù, ho provato a telefonare alla polizia e ai carabinieri, ho chiamato 112, 113, sono rimasto per più di mezz'ora al telefono, una telefonata... ormai un numero unico pare. Beh, allora... in 3-4 lingue mi diceva devo attendere, nessuno rispondeva, né 113, Mario, come andate a finire? Come è andata a finire alla fine storia? Alla fine sono riuscito a parlare con la polizia dopo. No, ma come è andata a finire la storia? Sono ancora lì? Sì, esatto, no, una settimana che hanno occupato, già stanno facendo i lavori. Stanno facendo lavori di ristrutturazione e poi io ho parlato con la polizia. Sì, però Mario, io non conosco questa storia. Dammi l'indirizzo esatto. Qual è l'indirizzo esatto? Via Camillo Jacobini. Via Jacobini, numero? 187. Via Jacobini, 187, Roma. Benissimo. Allora, forza pubblica, gente di buona volontà, salviniani, noi con Salvini, noi con Cruciani, noi per Pinco Pallino. No, è venuta la polizia, ha detto che noi non possiamo farci niente. Vabbè, ma l'Italia va così, se uno occupa un posto prima di mandarlo via passano giorni, settimane, addirittura mesi. Ma sono Rom forse? Sono Rom questi signori? Sono Rom, eccolo lì, sentilo subito. Sono Rom, sono negri? Sono negri per caso? No, sono delle persone che hanno commesso un illecito, un'illegalità. Io credo che erano italiani. Io credo che sono italiani che peraltro sono italiani vicini a Cruciani. La polizia penso anche. farà semplicemente una denuncia presso la Procura della Repubblica. Vabbè Mario, abbiamo capito. Mi pare che questi qui mentre stavano occupando dicevano viva Cruciani, ma no, ma lo perché? Facciamo in... Sì, beh, probabilissimo. Ma perché? Cominciamo a diffamare così gratuitamente, tanto chi se ne frega, no? Come avete fatto con quella ragazza di Napoli inesistente? Diffamiamo. Tutto da vedere. Diffamiamo. Va bene Mario, abbiamo dato l'indirizzo a tutto, Lazar Brescia, vecchia conoscenza Lazar. Mi sembra, il signor Lazar da Brescia, non avanti. So. Lazar, che sta a fare Lazar? Cioè, rumori di... Leo Lecce, vai. Ciao Giuseppe. Dimmi Leo. Ciao, dimmi. Sei un grande, ti voglio bene. Allora, no, volevo soltanto dire che a Parenzo, che gli voglio molto bene anche lui. Ti seguo da poco, però ultimamente, ultimamente vedo che stai perdendo un po' colpi. Ho visto l'altro giorno un video su internet con una discussione con Fusaro. Mi sei sembrato la Boralevi. Mi sembrava Antonella Boralevi. Cioè, in che senso? Perché era assente, a parte le smorfie in radio, difficile cosa. Ho visto un video su internet. Ah, il video dello stream. Ho visto un video su internet. Ma perché non lavori anziché vedere un video su internet? Ma perché non esci con la tua fidanzata? Perché non leggi un libro? Perché non la porti a cena? Perché non vai al cinema? Però perdi di credibilità. Ma perché? Che ha fatto? Non ho capito. Ma perché? Che ha fatto? Sei poco coerente. Perché fai tutto il discorso della maggioranza silenziosa, della cordialità, della gentilezza, e poi stai lì invece a bloccare le persone, li parli bloccare sopra, dove? Poi parla... Ma questa è la radio, si attacca, si discute, ma di che parli? Sì, lo so, ok, ma infatti Giuseppe tu sei un grande, perché sei coerente così, invece Parenzo invece fa tutto quanto... La gentilezza, bisogna essere cordiali e quant'altro, invece poi prima che ma la cordialità non significa farsi prendere a schiaffi, attenzione. Ma inflessibili nella battaglia. Inflessibili nella battaglia. Ciao Leo, cordiali. Giuseppe da Roma, ciao. Giuseppe, cordiali, educati, Giuseppe, bere l'acqua dimmi, nelle Giuseppe, dimmi. Pronto? Dimmi, dai. Ciao Giuseppe. piacere di parlare con te. No, ti volevo dire innanzitutto non farmi parlare con questo parasita di sinistra che hai al fianco, sì. Perché chi sarebbe, veramente scusi? Tu chi sarebbe il parassita di sinistra? Parassita di sinistra. Ne conosco a centinaia qui sulla Piazza d'Italia, a centinaia di parassiti e leccaculi, guarda, parassita hanno fatto sinistra. Una cricca di delinquenti. Lei, che hanno professore, di che cosa si occupa esattamente? Occupato tutte le istituzioni pubbliche, sono tutti amici degli amici. Ma lei nella sua triste vita, aspetta, io volevo parlare di una cosa comunque, Cruciati, aspetta una Giuseppe cosa... però qui abbiamo detto parassita di sinistra, sì. Leccaculo, delinquente, ha aiutato, sì. I delinquenti, questa è una cricca di amici, capito, ma non è che hanno paralizzato cricca? Lo Stato italiano e lo continuano a paralizzare. Ma che cosa ha paralizzato? Il suo cervello? In tutte le amministrazioni dello Stato uomini che fanno disturbo praticamente al paese, all'economia. Ma guarda che l'unico disturbato è lei, l'unico disturbo lo arreca lei, l'unico disturbo. Fanno anche i buonisti, perché sono dei falsi buonisti, io li conosco bene buonista? Purtroppo a questi sinistroidi. Comunque volevo parlare di una cosa, sì, però, più importante, Giuseppe, di questa gente che è difficile, sì. Veramente andrebbe isolata dal paese quasi. Ma tu che faresti con isolata? Questi che tu chiami parassiti di sinistra? Cosa? Stai zitto tu che appartiene alla cricca di amici, parassita di sinistra, che cosa faresti ai parassiti di sinistra? Sono dei parassiti, sono infilati in tutta l'amministrazione pubblica dello Stato e in tutta l'amministrazione privata dello Stato. Sono degli amici che disprezzano tutto, ma stanno lì a guadagnare centinaia di milioni di euro, e praticamente sono dei sindacati. Ma che cosa le è successo? Ma è caduto dal seggiolone da piccolo? Ma non ho capito. Non sono caduto da nessuna parte, guardi, io vi conosco benissimo. Ma chi avete paralizzato questo? Avete paralizzato questo paese, lo continuate a paralizzare con il vostro atteggiamento buonista, capito? È parassitario. Volevo parlare con te, volevo parlare di una cosa che riguarda Giuseppe, dei clandestini, cortesemente. Che è successo? Ecco, cortesemente. Allora volevo dirti questo, io abbiamo un altro capitolo, forza, vecchio cavallo di battaglia. Qualche settimana fa mi ritrovo in un giardino qui alla zona Infernetto. In un giardino, ecco, sì. Interessante 50, che questa 50 ragazzi di colore, sì. Mamma mia che scandalo. Energumeni, sì. Sono dei ragazzi piazzatissimi, tutti con telefonino grandi, cellulare, grandi e grossi. Tutti ubriachi, sì. Tutti sono ubriachi, intervenuti come tre lei? Volanti dei carabinieri, tre volanti, sì. Perché uno solo avevano paura. E dunque è una storia hanno ricevuto spintoni, sì. Sputi da tutte le parti. Questi poverini cercavano semplicemente di tenere l'ordine, insomma, allora? Non sapevano, e alla fine uno di questi, sì. Ha pisciato anche sulla macchina dei carabinieri. Tu mi spieghi, noi in che cazzo di paese siamo? Questi andrebbero caricati con i celerini, portati in montagna, caricati di botte e messi su un deltaplano possono viaggiare da qualche altra parte. Aspetta un attimo, okay. Giuseppe, aspetta un attimo, sì. Lazar, ci sei? Lazar da Brescia? Dammi 20 secondi per favore. Sì, aspetta. No, Lazzarra, hai sentito o no questo Giuseppe da Roma? Lazzarra? Sì, ho sentito. Sì, ho sentito. È una vergogna proprio, però. Comunque, ascolti. Allora, scusi, perché sono in cassa, porco cane. Sei in cassa? No, in non cassa. Ti preoccupare, sì, pagando, fratello. Stai lavorando, lo so. No, sta pagando, sta facendo la spesa. Ascolta, un saluto a Parenzo. Ciao, caro fratello Lazar, ciao. Sì, ciao. Per Corusciani. Ma lei è parente musulmano? Per caso del grande professore Marc Lazar? No, non c'è, questo è il nome di battesimo, Lazar, non c'è tra niente. No, siamo una famiglia famosa in Algeria, però siamo tutti di dottore. Pensavo fosse il grande parente del grande intellettuale francese Marc Lazar. Ma tu sei muslim? Sì, muslim. Allora, da un muslim ti mando tranquillamente a fanculo, Cruciani. Ma perché, scusa, che c'entra adesso? Sì, certo, Cruciani. Anzi, è poco, di mandarti a fanculo è veramente poco. Comunque, sì, l'Islam. Aspetta un attimo, Giuseppe, vuoi dire qualcosa al signor Lazar algerino? Ma non posso dire nulla, io vorrei dire solo a Parenzo un'altra cosa che... Praticamente dietro è uguale a Fazio, sono due finti giornalisti, adesso si sta accreditando anche a fare il grande giornalista. Ieri sera ho visto che ha intervistato il grande Dell'Utri, il grande Dell'Utri. Vabbè, questo per diventare... che cazzo c'entra? Vabbè, ciao Giuseppe, Lazar, Brescia, ciao, vai. Buona serata, ciao. Lazar, vai, continua, vai. Allora, ti mando tranquillamente a fanculo. Allora, tu ogni giorno, l'Islam, cosa vuoi che facciamo? Ci convertiamo al buddismo, all'Hare Krishna? No, ma chi vuole che ti convertiamo? Io sono sono ateo, che me ne frega. No, ascolta, ci andiamo a suicidare. Ce l'abbiamo già dei problemi, no? Allora, ma che vuoi da me? se sono problemi vostri dell'Islam. Tu sei un islamico moderato, ma non hai mai detto nulla contro il terrorismo? Hai mai detto qualcosa contro i terroristi? Caro mio, sì, certo, io sono stato sempre con centinaia di persone, siamo state sempre in piazza. A differenza di... Ma quale piazza? Sì, a Milano, a tutte le parti. Ma che vuoi, Lazzarra? Ma che vuoi da me? Dimmi che vuoi da me. Di non falsificare le cose. Ci bastano già Salvini del Debbio, di Petro e varie, e la compagnia belle di trasmissione del cazzo che seminano l'odio. Già noi seminano l'odio, seminano l'odio. La tua zanzara del cavolo qua, io lo sento ogni giorno, ma veramente non serve a niente. Cosa serve la zanzara, porca puttana? Ma cosa servi tu? A cosa serve la zanzara? Che è un prodotto radiofonico. A cosa servi tu? Ciccio, ascolta caro mio, io vado a contribuire, io sto pagando le tasse. Bene, ottimo, e allora non rompere i coglioni a noi. Sì, no, certo, sì, come no, devi rispettarmi, devi rispettare anche la mia religione e anche la gente brava che vengono qua a lavorare e costruire. Ce l'hanno di bambini, ce l'hanno di famiglia, un po' di rispetto ci vuole. Senti, Lazzarra. Che cavolo vuoi? Andiamo, camminiamo sui marciapiedi con la testa bassa? Ma chi ha detto questo? Io ho detto... togliamo i pantaloni, voi avete reso questo paese veramente una vergogna. E musulmani, perché se ce l'avete? Ma quale vergogna, che puoi, cavolo, fare quello che vuoi? Ma chi ce l'ha con i musulmani? Noi ce l'abbiamo tu, Cruciani, con... Cruciani, io ti sento ogni giorno, cavolo, ti sento ogni giorno, sei una vergogna. L'Islam, come viene interpretato spesso, è... all'antitesi della democrazia. Ma chi l'ha detto? Chi l'ha detto? Tu sei Andrei, come le trattate le donne nei paesi dove c'è la legge islamica? Come le trattate le donne? Ascolta, tu ce l'hai in testa, già sei prevenuto, hai capito, contro i musulmani. Non posso cambiarti la tua idea di merda. La tua idea di merda è disegnata bene, basta. Disegnata non c'è niente bene da dire. Ciao, ma ascolta, tu sei un giornalista, perché non approfondire? Sì. Approfondire, vai a studia un po', prendi i libri, leggi. Devi intervistare anche la gente che sono capace a darti di belle risposte. Non prendere la gente in caso così, di turno, quelli che non sanno neanche parlare, e poi dopo trasmettete le cazzate che le sparano. È così. Allora che fai? Ci vuoi dare lezione su quello su cosa dobbiamo trasmettere? Certo. Lui vuole dare lezione, Lazzar. Lazzar da Brescia vuole dare lezione. Non vuole dare lezioni l'ottimo Lazzar, non ho capito. Ti manca proprio l'educazione. Sei maleducato anche. Io sono maleducato. Quello hai esordito dicendo questa è una trasmissione del cazzo. Io sarei maleducato. Ascolta, di offendere 1.700.000.000. Io non offendo nessuno. Dico che l'Islam è incompatibile con la democrazia. Punto. Se voi vi piace la dittatura, se vi piacciono. Cruciani, sentimi un attimo. Se qualcuno intervenga sulla tua radio di merda lì, no, è un musulmano per caso, tu subito lo disegni le cose come fosse un terrorista, non lo so. Ma chi ha detto? Stai intervenendo tu, per esempio? Vabbè, già, sì, mi rotto le scatole. Ma io, Lazzar, a differenza degli altri, ce l'ho le palle quadrate, sì, io non quadrate, ho paura di parlare. Ottagonali, gli altri sì, poverini, perché hanno paura. Siete riusciti alla fine. A mettere questo virus alla testa dei musulmani poverini che hanno la colpa. Che colpa hanno, porca miseria, di essere musulmani? Che colpa hanno? Cosa ti hanno fatto i musulmani? Basta, dai, dimmelo, Cruciani. Basta, cosa ti hanno fatto, figa? Basta adattarsi, dai, basta adattarsi alle fatto? Nostre regole, trattare bene le donne. Ma vuol dire? Trattare ascolta, bene le donne. Io, tu lo fai, altri non lo fanno. Ascoltami, Cruciani, mi fai veramente incazzare. Io con decine di amici che siamo musulmani. Bene. Qui a Brescia siamo di donatori di sangue. Ma che c'è, tu, che c'entra a differenza di te, sangue? Tu vai a donare sangue? Tu vai a donare sangue, Lazzar, ma hai rotto la scatola, ciao, ascolta. ti saluto Lazzar, ciao. Ha ragione Lazzar, va bene, vaffanculo. Adesso la borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Nilox.com, dove la tecnologia diventa sport. La Zanzara. Ok, Figa Massaggio. Sweet faces with a smile, there is no need to cry for trifles more than this. Comunque ragazzi, pisciare seduti è di una comodità pazzesca. Affanculo al maschilismo e all'orgoglio, io da quella tazza non mi ci alzerei mai. Have I tried to draw the veil? If I have, how could I fail? Did I fear the consequence? Dazed by careless words, cozy in my mind. Io vai sta male, sento dalla voce che sta male. Michele da Rovigo, riprendiamo con Michele, vai ciao, Michele, vai. Ciao Parenzo, buonasera. Parenzo è andato, è alla 7 già, vai, è già in diretta. Volevo commentare un attimino la signora di Milano di prima che si dovrebbe solo vergognare. L'assessore che ha detto che dà al compagno il biglietto per andare allo stadio. Si devono solo vergognare, io lavoro nel mondo dello spettacolo con strutture e ti dico, ho visto far spostare i posti per i disabili per mettere le famiglie di tutta questa gentaglia che abbiamo in questo momento che ci governa, guarda, è una cosa allucinante. È brutto da dire, ma è ancora più brutto da vedere, guarda. Poi in più hanno anche il coraggio di parlare per radio o per televisione, dove li vediamo, ecco. È uno schifo. Poi niente, che comunque alla fine Cruciani, anche il signore di prima che parlava, paghiamo le tasse di qua, paghiamo le tasse di là, sì, ma quanti ne abbiamo che non pagano le tasse di sti coglioni? Ma di quanti chi? Coglioni quali? Il bresciano che ha parlato adesso per ultimo, sì, il signore extracomunitario, sì. Quanti ne abbiamo che non pagano le tasse? Quanti ne manteniamo di queste persone? E no, poi che non pagano le tasse, non lo so, sicuramente quelli che manteniamo sono tanti. Dobbiamo sì. Fare umiliare anche per radio da queste persone, cioè, o vi dovete fare umiliare, ma per carità, ma non li fate neanche parlare, guarda. Davvero? No, noi facciamo parlare tutti qua. So che fate parlare tutti, però uno che è appassionato da zanzare, giustamente poi gli giro anche un po' le scatole quando si sente umiliare da una persona così. Dopo che comunque c'è, ripeto, ribadisco, ho un'azienda, settimana scorsa ho assunto una persona extracomunitaria, perché comunque ci sono anche quelli bravi a lavorare, non c'è nulla da dire. La prima cosa che mi ha chiesto, quanto prendo, e gli assegni familiari, non quello che sa fare. Questa è la prima cosa che ti chiedono, ti dicono qual è il lavoro. Vabbè, no. Ma quello è normale però che chiedano una cosa di questo tipo. Non è normale, dai, non è normale. Cruciani, 20 anni fa non era così, non è normale. Io non lo trovo normale, guarda. Cioè io questo hanno chiesto, non ci trovo più un cazzo di normale in questo paese. No, ma hanno chiesto quanto guadagnano, qual è la tredicesima, la quattordicesima. La prima cosa, sono arrivati dopo 3 giorni col foglio degli assegni familiari, giustamente. Cioè io ho una sorella mia che lavora in azienda, c'ha pure dei figli, lei gli assegni familiari non li prende, perché comunque è parte integrante dell'azienda, è assurdo. Vabbè, poi? Basta, niente, questo. Ciao Michele, ciao. Buona ciao. Serata, ciao. Dove andiamo? Amid Piacenza, vai Amid. Sì, buonasera. Senta, dimmi Amid, dimmi. Io credo che si sta facendo un grande polverone di questi immigrati. L'immigrazione è vecchia quanto l'essere umano. L'Homo biblici, l'Homo sapiens ha immigrato. Non ho capito, scusami Amid, cioè, sì, spiegami, dimmi. Io le sto spiegando che l'immigrazione è un fenomeno vecchio quanto l'umanità. Lo sappiamo, non c'è bisogno che lei ce lo spieghi. Ecco, perché tutto sto polverone? Ma che vuol dire? Ci sono delle... Uno dice, ora io la spiego. No, non devi spiegare niente, devi dire che cosa pensi. Okay. E soprattutto l'oggetto. Allora, il problema è che... Guardi che tutto quello che sta succedendo, lo sa lei, lo sa Parenzo, lo sanno tutti, fanno finta di niente. È un'industria. Sì, ma lo sappiamo, l'abbiamo detto. Allora... Ecco. E adesso li lasciano scannare tra di loro e fanno la guerra dei poveri. Tra di loro chi? Ora, tra di loro la proletaria. Vabbè, che Amid, comanda. Che cosa vuoi dire? Non ho capito un cazzo. Dimmi una cosa concreta, altrimenti ti mando a fare in culo. Allora, dai. Spiego una cosa. No. Garbo, io ho 53 anni e sono una persona che garantisce, sono istruito, non mi piacciono certi gerghi. No, ma non mi interessa a me se a te piacciono o non ti piacciono certi gerghi, come li chiami tu. Non è quello il punto. Cosa vuoi dire? Di dove sei innanzitutto? Di che origine sei? Io sono marocchino d'origine. Sei marocchino, bene. Ok. Muslim? Muslim? Muslim? Muslim? Ma io sono musulmano come lei, cristiano. No, io non sono, io sono ateo, per cui non ho problemi. Ma io, ma ognuno faccia come, come crede. Il problema è questo: quando troviamo un testa di rappa che tratta male la sua donna, e voi musulmani fate. Ma non è vero. Cosa non è vero? Ma allora troviamo un italiano che ammazza per la poligamia. Tu sei, ma che c'entra? In, certe, in certi paesi è legge il, allora, il maltrattamento della donna, allora, la sudditanza ascolti, della donna, allora, la minorità ascolti, della donna. Sì. Dai, su, sì, non dire cazzate. In alcuni paesi è legge, sì, è legge. Alcuni, l'ha detto lei, alcuni. Alcuni paesi, allora, che però bisogna, sono islamici, bisogna, sono islamici, ecco, non sono cristiani, non io sono cattolici, sono, non sono buddisti. Un paese islamico. Tu sei a favore della poligamia? Sei a favore della poligamia tu, Hamid? No. Beh no, ma allora sei un islamico, però, così. Però, alla... da noi non c'è. Ad esempio l'hanno punita perché hanno creato... Cosa dei... mi vuoi dire? Spiegami. Io allora, non ho ancora capito perché mi hai chiamato. Se c'è questo polverone, la legge per questi immigrati per ritirarsi c'era, l'hanno tolta. Perché? Non lo so, non so di che stai parlando. Ciao, Mid. Allora, ciao, questa, ciao, questa ciao, ciao. Allora ragazzi, noi non molliamo sul caso quello del sindaco di quel paese in Campania, Michele Palumbo di Pimonte, il quale ha detto che è una bambinata lo stupro di una ragazzina da parte di un branco di coetanei. I nostri sondaggisti sono andati nel paese Pimonte. Cosa ne pensano gli abitanti? Sentiamo. Buonasera, Associazione Italiana dei Sondaggi, AIDS. Posso rivolgerle una domanda? Ma che è un dottore? No, non sono il dottore. Stiamo facendo un sondaggio. Lei sta bene, sì? Sì, sì. Il sindaco di Pimonte, il vostro sindaco Michele Palumbo, ha definito una bambinata lo stupro di una ragazzina di 15 anni. Cosa ne dice? Questo non lo so, cara dottore. Ridaglie. E cosa ne pensa invece del sindaco? Perché è così bravo, uno sindaco che è, gli porta a baraccananza. Cosa dice, signora? Ma nulla di male, il sindaco non ha detto nulla di male, per carità, non ha una colpa di niente, è una brava persona il sindaco, per carità. Sì, niente di male, però una bambinata, lo stupro, insomma. Va bene, forse è una bambinata così, ma non ha detto niente di male, per carità, il sindaco è bravo. Pronto? Il vostro sindaco ha definito una bambinata lo stupro di una ragazzina di 15 anni da parte di 12 suoi coetanei. Io perché sono mamma e figlie, sono nonna. Non è che mo ti ne davo tutto cosa a me, ma perché è peccato, sta ragazza veramente ha voluto far morire di collera, non è giusto. È morire di collera, signora. C'è stato uno stupro di gruppo di 12 ragazzi nei confronti di una loro coetanea. I ragazzi sono ragazzini, tutte le ragazzine sono. Hai capito? E giustamente noi paesini è stata una vergogna per noi. Zanzara, vai Franco da Milano, vai. Tipi da Zanzara. Allora andiamo a Milano, come Franco. Come definire delle persone che scappano dalla fame e dalla guerra e cercano semplicemente un futuro migliore per sé e per i propri figli? Sono cercatori Hai di felicità. Hai quel coglione lì, dai. Chi è quest'altro? Chi è? Franco forse. Franco, sì. Franco, perché un coglione? Perché? Vai, prosegui. Un coglione perché è credente, basta. Tutto lì. Perché? Franco è ubriaco, purtroppo. Non ho capito, perché è credente? Sì, per me i credenti sono dei coglioni, basta. Uno che non mangia prosciutto crudo, uno che va a fare il pirla davanti ai muri con la testa su e giù, ma mi fa ridere. E poi continua a dire, ma hai offeso miliardi di persone. Milioni. Perché lui con Anna Marchi, io sono un seguace di Anna Marchi. Che cazzo è da questo fare? Spiega tutto allora. Sì. Volevo dire un'altra cosa. In che senso lei mi scusi un seguace di questo è interessante, dica, sì, perché è curioso questo. Così come tu sei seguace di chissà qui cazzo che sta lì dei cieli, io sono seguace di Vanna Marchi. Ottimo. E non offendermi Vanna Marchi, che è mio no, Dio. Ma per carità, io sono anche per la tutela del io sono per la tutela del cretino, quindi sa bravo. Io tu sono per tutelare il cretino davanti al muro che fai una bella figura. Dunque, coglione. Io sono un ateo, no, lei è semplicemente un imbecille. Mi dia retta. Dirla. Mi dia retta. Lei magari fosse semplicemente un ateo. Lei è un imbecille. Non avrei un sentimento di ammazzarlo, di metterlo in carcere. Che sentimento perché avrebbe? Tutto sommato è colposo. Sai quante volte, sì, quante volte a ognuno di noi è capitato per distrazione di passare col rosso, non l'avevo, sì, mai visto, e ci è andata di culo? E magari aver bevuto due bicchieri prima? Sai cosa diceva mia invece nonna? Invece tu sei indulgente. Diceva, ricordati che l'ora del coglione arriva per tutti prima o poi. E infatti alle 20.06 è arrivata, guarda un po', 20.04. Ti sta definendo, vedi, un coglione, Franco. Totalmente. No, ma 20.04, l'ha detto lui. Però. Allora siete coglioni veramente. Ma scusi, ha chiamato lei alle 20.04. Tipi da zanzara. Allora ragazzi, vi devo dire una cosa in conclusione di trasmissione su un cantante che si chiama Morrissey, cantante che molti di voi conoscono, il quale sostiene e ha annullato, sembra, anzi la cosa è quasi certa, tutte le sue date in Italia, questo imbecille, dicendo che non vuole venire in un paese di psicopatici. Voglio ricordare, per questo, per una diatriba con un vigile urbano a Roma che lo ha fermato mentre, secondo la ricostruzione del comune di Roma, dei vigili urbani, eccetera, eccetera, andava in controsenso in via del Corso a Roma. Questo cretino totale ha detto no, ma io non voglio, poi c'è stato un diverbio con questo vigile, eccetera, e non mi sento sicuro tra gli psicopatici. Cioè questo ha detto, cioè le sette, e dopo ha annullato le sette date che stava organizzando nel nostro paese, non si faranno più. Non erano i vigili urbani, era la polizia di Stato. Allora ragazzi, questo signore ha detto non mi sento sicuro tra gli psicopatici, dicendo sostanzialmente che non si sente sicuro in Italia perché ci sarebbero degli psicopatici in divisa che lo fermano e gli rompono i coglioni. Allora la cosa è molto chiara, questo signore, bisogna ricordare, Morrissey, sostiene che ai suoi concerti non vuole gente che mangia la carne, cioè proibisce l'entrata di qualsiasi prodotto animale all'interno dei propri concerti. Cioè, questo qua dà dello psicopatico alla polizia italiana? Questo è lo psicopatico è lui, quello che proibisce alla gente, oltre alle cose che dice sugli animali, sugli uomini, vabbè, quelle fanno parte della follia nazi-vegana, ma in più non vuole che ai suoi concerti la gente entri con qualche prodotto animale da mangiare. E dà dello psicopatico alla polizia italiana che lo becca in contromano a via del Corso a Roma. Questo è il personaggio. Andate a fare in culo. E questa è una vergogna! È una vergogna! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.